Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Di cosa ci occuperemo oggi? Faremo una, visto che la cronaca della giornata economico-finanziaria si presenta variegata oggi, i mercati sono tutti positivi, Milano più 1%, Parigi più 1,7%, Francoforte più 2,4% e Londra più 2%. Dicevo, ci occuperemo delle varie facce di questa crisi. Perché? Perché è uscito un dato sulla Cina di nuovo, che segnala di nuovo una difficoltà nell'andamento dell'economia cinese, e soprattutto anche il presidente del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, oggi ha detto: ci sembra molto difficile che la Cina possa raggiungere quell'obiettivo di crescita all'8% che si è prefissa, è più probabile che cresca del 6-7%. C'è un piccolo problema, come già in un'altra occasione ricordavamo, in Cina, e secondo, diciamo, il governo cinese, una crescita sotto il 6-7%, che per noi sarebbe inimmaginabile, sarebbe una cosa da appunto economia, boom economico, una crescita sotto quel livello in realtà porta a non garantire l'ordine sociale, ossia quel flusso abbastanza ordinato ed equilibrato di lavoratori, o meglio contadini, che dalle campagne si trasferiscono nelle città. Perché ne parliamo anche oggi? Non solo per queste previsioni diffuse da Strauss-Kahn, ma perché, come avrete letto anche sui giornali, tra l'altro per la prima volta a questo punto, visto che sta finendo il Capodanno cinese, quindi il periodo delle festività, come da noi, si torna a casa per le festività, sembra quasi certo che quasi 20 milioni di immigrati in città che erano tornati in campagna per le festività resteranno nelle campagne cinesi. È la prima volta negli ultimi anni, negli ultimi decenni, da quando è iniziato questa grande marcia da Deng Xiaoping in poi, di sviluppo di un capitalismo cinese, che si registra un travaso al contrario, cioè persone che resteranno in campagna. Questo e non torneranno a lavorare nella città. Tra l'altro, oggi Pechino ha varato una nuova tranche di aiuti all'economia da 19 miliardi di dollari. Resteremo sui settori produttivi, però questa volta in Italia, perché come oggi riportato anche soprattutto dal Sole 24 Ore, ci sono alcune aziende, Luxottica su tutte, ma anche altre, che stanno predisponendo dei piani interni, chiamiamoli così, per reggere l'urto di questa crisi, recessione economica, non farsi troppi danni, non ricevere troppi danni, e in questo modo nella speranza di traghettare poi l'impresa nel 2010 senza appunto troppi indebolimenti, anno in cui, se non cambiano le previsioni, questa crisi dovrebbe essere finita, forse no, mordere molto meno, probabilmente sì, e in cui si riuscirà anche a respirare. E poi ci sono dati interessanti sui consumi, di cui parleremo dopo i mercati finanziari, perché per esempio è emerso che a dicembre tutti i prodotti che aderiscono a Centromarca, e quindi le grandi marche italiane, oltre 130 marche, hanno registrato un incremento nelle vendite di quasi l'8%. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo allora dalla borsa. Dicevamo positivi tutti gli indici europei e non fa eccezione nemmeno Wall Street, più 0,8%, euro a quota 1,3 sul dollaro e 90 pence sulla sterlina. I titoli che vanno meglio in questo momento: Fiat più 7%, Telecom Italia più 6%, chiaramente avremo anche un approfondimento su Fiat e Telecom Italia, e Pirelli più 5,8%, Enel più 4,3%, Mediolanum più 3,6% come Fondiaria, il 3,5% lo guadagna Terna e il 3% anche Luxottica. Terna, oggi diffusi i dati, avremo anche un'intervista con il numero 1 Flavio Cattaneo. Andiamo avanti con i titoli. A2A più 2,6%, Mediaset più 2,6%, il 2,5% lo guadagnano, stima Microelectronics, Parmalat e Fastweb, il 2% è il rialzo di Italcementi. Negative invece Monte dei Paschi meno 3%, Tenaris meno 2,4%, Banco Popolare meno 2%, Intesa meno 1,90%, UbiBanca meno 1,6% e Prismian meno 0,80%, Finmeccanica meno 0,7%. Non avevamo citato Unicredit, è positiva, oggi guadagna l'1,7% come Autogrill. Le altre notizie, continuiamo col nostro racconto dell'Euribor, nella speranza che appunto si trasferisca poi anche sui tassi praticati a clienti e imprese. E l'Euribor scende oggi al 2,06%, minimi dal 28 aprile 2004. Nel frattempo la crisi sul fronte di chi l'ha, non dico creata, ma sicuramente amplificata, ossia i grandi gruppi bancari americani, le banche d'affari americane, non solo, vede oggi un taglio in Svizzera da parte del Credit Suisse First Boston del 55% di tutti i bonus annuali dei dipendenti. Questo dopo che Credit Suisse ha portato a casa svalutazioni pari a 13 miliardi e mezzo di dollari. A subire il ridimensionamento più drastico dei bonus saranno proprio dipendenti del settore investment banking, di quello che è il secondo gruppo bancario in Svizzera dopo UBS. Sia UBS che Unicredit, che Credit Suisse hanno avuto pesanti svalutazioni dall'investimento in prodotti derivati, a leva e comunque strutturati. Citigroup, altro gruppo che ha avuto 45 miliardi di perdite finora per gli investimenti fatti in questi prodotti, vorrebbe destinare 36 miliardi di dollari dei 45 che ha ricevuto come aiuto dallo Stato americano per i prestiti alle famiglie, agli studenti e alle imprese, e quindi salutiamo con favore questa notizia. Infatti i fondi non saranno utilizzati per compensazioni e bonus, né per i pagamenti di dividendi, né per operazioni di lobbying, né per marketing, sponsorizzazione o pubblicità, per cui inizia a stringere anche il governo americano sui soldi che ha prestato, e Citigroup ne prende atto e precisa che questi, la maggior parte di questi 45 miliardi verranno utilizzati per prestiti retail, il retail che sembrava passato di moda ai tempi della finanza creativa geniale di Wall Street. Anche la Svezia deve intervenire con il governo per ricapitalizzare le proprie banche, 6 miliardi di dollari. Tra l'altro la Svezia sta conoscendo la sua prima recessione da 15 anni. E oggi di questa vicenda ha parlato l'ex direttore generale di Intesa San Paolo, Pietro Modiano, il quale ha detto, attualmente è presidente della Carlo Tassara di Roman Zaleski, che nella proliferazione della crisi finanziaria mondiale, più che l'avidità dei banchieri, ha avuto un ruolo la loro ignoranza, e detto da Modiano non è male. Modiano ha anche continuato che è difficile dare tutte le spiegazioni di questa crisi mondiale giocandole sull'avidità dei banchieri. Ha detto sarebbe stato così se le banche avessero trasferito tutti i titoli tossici ai privati, ma i titoli tossici sono finiti dalle banche alle banche, ecco perché è meglio parlare di ignoranza più che di avidità. Nel frattempo in Germania migliaia di dipendenti pubblici sono scesi in piazza per chiedere un aumento dei propri stipendi. Anche la Germania sta attraversando la peggior crisi economica che degli ultimi 10 anni. Il sindacato punta ad un aumento di stipendio dell'8% per circa 700.000 dipendenti pubblici. E poi c'è un particolare interessante, io vorrei capire come potrebbe passare, ma insomma in Francia, lo ha detto lo stesso ministro delle finanze, la Christine Lagarde, si sta pensando di imporre al gruppo PSA, Peugeot, Citroën e a Renault l'acquisto di componenti automobilistiche e servizi solo made in France come condizione per ricevere il pacchetto di aiuti annunciato lo scorso dicembre. Beh, se questa non è concorrenza sleale o aiuto di Stato, io vorrei capire cosa lo è, ma sappiamo che su questi francesi hanno un'interpretazione un po' diversa rispetto a quella di Bruxelles, perché insomma obbligare, se vuoi ricevere un aiuto dello Stato, sarebbe come se da noi si dicesse la Fiat può ricevere un aiuto solo se compra la componentistica dai fornitori italiani. Per carità, anche lodevole dal punto di vista nazionale, non penso che possa passare a Bruxelles. Sempre nel settore dei trasporti, le due ruote, gennaio terribile per le vendite, meno 39%, tra l'altro la situazione meno negativa è per i 125 di cilindrata, un meno 30%, mentre molto male le cilindrate medio-alte e i maxi scooter, con decrementi, con cali superiori al 40%. E ne parleremo, perché ricordavo che abbiamo un'intervista con Flavio Cattaneo, numero uno della Terna, però oggi Terna ha specificato come, se noi sappiamo che un grande indicatore della crisi è anche quanta energia elettrica viene consumata, ebbene oggi Terna ha detto che i consumi di energia elettrica a gennaio avranno un calo vicino al 10%. Enel diffonde i dati preliminari, ricavi più 40% a 61 miliardi, margine operativo lordo in aumento del 45%, tutto con un beneficio del consolidamento al 67% dei risultati conseguiti da Endesa. Tradotto vuol dire che dentro questo bilancio ci sono anche i due terzi dei risultati conseguiti da Endesa, che Enel ha acquistato l'anno scorso. E poi il dividendo confermato a 49 centesimi per azione per tutto il 2008. Le strategie anticrisi, ne parleremo nella seconda ora del programma. Ripeto, visto che alcuni di voi già ci scrivono, parleremo di Luxottica e del suo approccio per mantenere il potere d'acquisto dei dipendenti. Ma non c'è solo Luxottica, c'è anche l'Ilva di Cornigliano. Adesso, visto che l'elettricità, lo abbiamo appena ricordato, è anche uno dei modi per capire se c'è crisi o no, al di là della statistica, ricordavamo ieri il calo segnalato da Autogrill del transito di camion del 20% sulla tratta della 4 Milano-Venezia, il calo complessivo del traffico segnalato da Autostrade per l'Italia, Atlantia, meno 1%, questi sono indicatori, non ci dovrebbe essere un altro motivo se no per avere meno camion per strada. Ebbene, cerchiamo di utilizzare questi indicatori per capire di che tipo di crisi si possa parlare in quella che fino a ieri era la grande industria, la grande manifattura a livello mondiale, ossia la Cina. Eh sì, perché ricordavamo che oggi non solo si è scoperto che 20 milioni di immigrati cinesi dei 130 che fanno, come diremmo noi, la spola, il commuting dalla città alla campagna, 20 milioni su 130 resteranno in campagna, ma non ci sono più i loro posti di lavoro, e tant'è che insomma, i dirigenti del Partito Comunista Cinese sono molto molto preoccupati. È andato avanti anche il piano di aiuti del governo cinese, ha un'altra tranche da 19 miliardi di dollari, il pacchetto complessivamente vale 584 miliardi di dollari, questo secondo pacchetto dovrebbe concentrarsi sugli investimenti in infrastrutture. La Cina ha un approccio molto socialista, comunista, keynesiano, non lo so, ma insomma ritiene che il modo più sicuro per rilanciare l'economia sia investire in infrastrutture, e quindi ponti, treni, autostrade, dighe, e lì mettere i soldi lì sia una garanzia anche per il futuro. Vabbè, poi c'è la notizia che la notizia del lancio della scarpa fatto a Londra, in Gran Bretagna, scusatemi, contro Wen Jiabao nel paese, insomma, è stata diffusa solo oggi nel telegiornale della sera dalla TV di Stato, dando appunto un rilievo minimo, ma a queste cose la Cina ci ha abituato. Con chi parliamo di Cina oggi? Lo facciamo con il dottor Giorgio Arfaras, nostro ospite. Buonasera, dottor Arfaras. Buonasera. Lei ha scritto un libro molto interessante due anni fa per la Guerini Associati, Il grande ammiraglio Zheng He e l'economia globale, il ritorno della potenza. cinese in tempi non sospetti. Lei tra l'altro ha lavorato nello staff centrale della Pirelli, nell'ufficio studi, direzione e strategie, poi è passato dalla Pirelli al Credit Suisse, prima il fondo di investimento Prime, poi il Credit Suisse First Boston, collabora con vari quotidiani e ha insegnato finanza globale e ha iniziato a appassionarsi, diciamo, 6-7 anni fa all'universo cinese. Il libro è molto interessante anche perché confronta dati storici. C'è una cosa tra l'altro che a me è molto impressionato, che se noi andiamo a guardare le percentuali di crescita cinese, sia del trasferimento campagna città sia le percentuali di crescita complessiva, non si va molto distante dai numeri dell'Unione Sovietica degli anni 30 e poi degli anni 50. Quello che cambia sono i numeri, lì si parlava di qualche decina di milioni di persone, qui si parla di qualche centinaio. Ma iniziamo con il primo tema: perché la Cina ritiene che la soglia del 6-7% sia la soglia psicologica per mantenere l'ordine sociale? La cosa si capisce immaginando la Cina come l'Europa, dove la parte costiera della Cina è quella dell'Europa del Mediterraneo e la parte interna della Cina è il Nord Europa. Ora immaginatevi che ogni anno dal Nord Europa arrivino in Liguria, in Costa Azzurra, in Spagna, dai 10 ai 15 milioni di persone. Ma non è che vengono in vacanza, vengono a stare. E questo è il punto. Che sia una percentuale modesta della popolazione cinese non vuol dire niente, conta il numero assoluto. Quindi da 10 a 15 milioni di persone che vengono stabilmente a stare lungo le coste del Mediterraneo. Bisogna costruire per loro case, fogne, strade, aeroporti, porti, ferrovie e via dicendo. Se queste persone che arrivano nel numero di 10-15 milioni dalle campagne ogni anno in Cina non trovassero un lavoro, una stabilità, sarebbero un vero problema. Si pensi a Rio de Janeiro e alle favelas. Ora immaginate, Rio de Janeiro è una favela, penso che vivano da 2 a 3 milioni di persone, non di più. Immaginate in Cina una favela che ogni anno cresce di, non so, 6-7 milioni di persone e dopo 15 anni sono 100 milioni di persone. Quindi avremo una favela equivalente all'Italia e alla Francia. Non è immaginabile una cosa del genere. Allora, dato che dalla campagna la gente va in città, il problema dei cinesi è quello di far crescere a dismisura l'economia in maniera tale da assorbire tutta questa gente che arriva, gli inurbati. Quindi, facendo due conti, il numero magico che fa, che consente di assorbire senza traumi tutta questa gente che emigra dall'interno alla costa è intorno al 6-7%. Quindi quello che per noi sarebbe un tasso di crescita impensabile, perché se la popolazione in Italia cresce zero, per avere un 6% di crescita dell'economia dovresti avere un'esplosione di produttività del 6%. Per loro è normale. E la crescita minima volta ad avere equilibrio sociale. Quindi questa cifra che sembra così un po' strampalata del 6-7% è in realtà la cifra che permette, sotto la quale tu non riesci più a garantire, se ho ben capito la sua analisi, non riesci più a garantire a tutte queste 15 milioni di persone che ogni anno dalla campagna si trasferiscono in città, non riesci più a garantire un'accoglienza passatamente decente, una proletarizzazione accettabile. Li trasformeresti in quelli che venivano chiamati una volta sotto proletari urbani, e quindi la favela, il ghetto, la bidonville, cose che ben conosciamo in Sud America. Per garantire fogne, strade e soprattutto abitazioni a tutti questi inurbati nuovi, la Cina deve crescere, cioè il dato che dimostra che si riesce a garantirlo è un 6% di crescita annua, e questo intanto mi risolve un problema che non avevo mai capito. Ma il secondo aspetto che mi interessa è un altro. Le statistiche della People's Republic of China, della Repubblica Popolare Cinese, sono le statistiche di un regime. Ora, già nei paesi democratici sulle statistiche si preme, si cerca di farle adattare il più possibile alle proprie esigenze, parlo dei vari governi, ma almeno noi abbiamo la garanzia degli istituti di statistica, quello europeo e quello nazionale. La Cina fornisce sempre delle statistiche un po' così. Quando faceva paura la sua crescita, non mise la riga e disse stiamo crescendo dell'11%, quando sapevamo che magari cresceva del 12, del 13, del 14. Vorrei capire, questa crisi esiste? Perché se uno deve ascoltare il governo cinese può anche non fidarsi. Esistono altri indicatori, citavamo prima l'elettricità, i consumi elettrici, per capire se la Cina sta veramente rallentando, come dice Pechino, oppure in realtà la situazione è ben diversa. Ma si può pensare a una cosa indiretta. Le statistiche nazionali ufficiali cinesi non sono, diciamo così, il massimo del verosimile. In situazioni normali uno può anche disinteressarsi, no, se tutto va bene, se faccia a 10, 11 o 9, voglio dire, va benissimo. Il problema è capire cosa sta succedendo adesso. Un modo indiretto è quello di andare a vedere come vanno o le statistiche più facili da raccogliere o come vanno i paesi che hanno legami economici molto stretti con la Cina. La produzione di energia elettrica non è molto difficile da misurare e ultimamente è caduta tantissimo. Ora, o i cinesi hanno smesso di usare l'aria condizionata o l'industria va meno, non è che si scampa. Quindi quello è un segnale di rallentamento violento. Il fatto che l'energia elettrica sia la domanda di energia elettrica e quindi la produzione, perché nel campo di energia elettrica non c'è magazzino, è caduto di brutto. E questo è un segnale. Un altro segnale è il seguente. I cinesi importano tecnologia, la assemblano e la rivendono. Da chi la importano? Dalla Corea, da Taiwan, eccetera. Quindi uno va a guardarsi le esportazioni dei fornitori raffinati dei cinesi. E se uno guarda l'andamento delle esportazioni coreane, queste sono da brivido, e se uno guarda l'andamento delle esportazioni di Taiwan, sono meno da brivido, ma sempre da brivido. Quindi, da un lato notiamo che il consumo di energia elettrica, visto che l'energia elettrica non riesce a stoccarla come altri beni, lì è più difficile, mi passate il termine, taroccare il dato, perché quello è il consumo. Un calo brusco nei consumi di energia elettrica, visto che tendenzialmente uno continua a fare la vita di prima, è tutto relativo all'industria, come da noi. In questo senso è una cifra simile a quella dei paesi occidentali come affidabilità. E in secondo luogo, visto che la Cina in realtà ha dei subfornitori e si chiamano Corea e Taiwan, vedere che le esportazioni coreane sono crollate a gennaio del 32,8%, un record dal 1957, vuol dire che la Cina chiede meno prodotti semilavorati o comunque prodotti da assemblare, perché sappiamo che la Corea magari gli fa le componenti, poi loro le assemblano e fanno i computer. Dopo il meteo e la pubblicità ho un'ultima domanda per lei e riguarda la scelta. Cioè, si è detto da più parti, insomma, la Cina, se vuole uscire da questo impasse e anche creare un beneficio per noi tutti, deve iniziare a sviluppare dei consumi. Perché se è solo legata all'export, nei periodi di espansione economica va a levare quota di mercato alle imprese italiane che non hanno delle volte la forza per andare ad aprire stabilimenti lì, e comunque crea dumping, vende sotto prezzo in maniera scorretta. Quando poi finisce essa stessa in difficoltà, ci finisce perché è troppo legata alle esportazioni. Allora sviluppasse un mercato interno, così noi potremmo anche iniziare a vendere alcuni prodotti di fascia media alta a una nuova ipotizzabile borghesia cinese, ce ne sarebbe per tutti, viste le dimensioni del paese. Vorrei capire perché il governo cinese non sta puntando su questa strada e sta puntando invece su una strada molto più ortodossa, investimenti in ponti, treni, dighe e quant'altro. Allora, vedo che dopo una certa freddezza molti ascoltatori stanno scrivendo sul tema della Cina, anche perché per anni ci siamo preoccupati, dal 2003 in poi, di questo prorompente sviluppo cinese. Alcuni dicono, anche i cinesi hanno scoperto cos'è la globalizzazione. E certo, per quando erano un'economia chiusa non si espandevano, restavano nelle campagne, ma non conoscevano nemmeno il rallentamento economico. Dottor Alfaras, l'ultima domanda. Ossia, è pensabile che il Partito Comunista Cinese decida di puntare sui consumi interni e non continuare a legarsi alle esportazioni, visto che il rallentamento economico lo stanno causando proprio le mancate esportazioni? È un tema molto interessante per noi, perché se la Cina sviluppa un mercato interno, è chiaro, come dicevo prima, che ce n'è per tutti, soprattutto per noi, che quanto a produzione di tendenze, non siamo secondi a nessuno al mondo. A grandi linee possiamo dire che il problema mondiale è che gli statunitensi da cicale diventino formiche, i cinesi da formiche diventino cicale. Diciamo questo come ragionamento di massimo. Restando alla Cina, la soluzione è che i cinesi consumino di più, smettano di esportare tutto quello che esportano e smettano di costruire ponti e fogne e consumino. Però un conto è dire, un conto è fare. Per cui ragionando a fondo sull'argomento, secondo me è abbastanza normale rimanere scettici. Ora, uno si immagini in Italia, se io mi ammalo, non mi interessa dal punto di vista economico, dicono dal punto di vista affettivo, perché posso andare in un ospedale pubblico e non spendere un soldo perché l'ospedale l'ho pagato con le imposte, oppure perché sono assicurato. Non mi importa dei miei genitori né del mio futuro, dei miei genitori da mantenere, il mio futuro pensionistico da preparare, perché c'è un sistema che può essere completamente pubblico a ripartizione o misto, ma non cambia. Di pensione, qui io sono sereno. Infine non devo pagare la scuola ai figli perché la pago con le imposte. Questo cosa significa? Che quello che si tecnicamente è risparmio precauzionale nei paesi sviluppati non c'è. Uno risparmia quello che crede risparmiare, ma non sovra risparmia. Invece in Cina uno deve risparmiare come una formica, perché se si ammala non sa mai quanto deve spendere all'ospedale, potrebbero capitargli le malattie peggiori, lo stesso vale per la pensione, il sistema scolastico e via dicendo. Ecco, questo necessita di una premessa. In Cina, contrariamente a quanto uno possa immaginare nel più grande paese comunista al mondo, la sanità si paga, non c'è niente di gratuito, addirittura per gli stranieri se non hai l'assicurazione non entri in ospedale, e la scuola si paga, cioè la scuola statale non ha questa funzione che uno può immaginare. E anche lì ne abbiamo parlato altre volte, quando si fa il costo di un manager che ha un'impresa italiana di mandare un manager a vivere a Shanghai o a Pechino, è meglio che metta dentro i costi, anche se ha dei figli, migliaia di euro all'anno per la scuola e migliaia di euro all'anno per l'assicurazione per sé e per la propria famiglia. Questo era solo la premessa, prego. No, quindi il succo è per dire consumare, vuol dire che loro devono togliere le paure, diciamo così, o i sovraccosti alla popolazione. In sostanza, avere un sistema. Allora, in Cina, per esempio, la pensione c'è, ma è bassissima e per pochi, e via andando. Devono semplicemente o costruire un sistema di stato sociale diffuso all'europea o un misto all'americana, non si scampa. La cosa curiosa è che è un paese socialista privo di rete sociale. Allora, sostanzialmente i consumi in Cina diventeranno qualcosa di stabile economicamente quando i cinesi perderanno le loro paure, ma diventa un problema di riforma molto complicata del sistema politico e sociale. Quindi no, è inutile dire i cinesi consumano, non è che consumano se si abbassa il tasso di interesse e se hanno paura di rompersi una gamba, cioè non è come qui, uno dice ha tagliato il tasso di interesse, allora ecco i mutui legati al tasso della banca centrale che diventano meno onerosi. Lì non succede niente di tutto questo. Quindi è più una petizione di principio dire i cinesi devono consumare di più che qualcosa che si può realisticamente immaginare. Sì, perché nei prossimi sei mesi, anno, due o anche tre. Adesso questo ci porterebbe troppo fuori, ma è interessante. Anche in America non è che lo Stato offra grandissime garanzie quanto a welfare. Però lì c'è ormai un capitalismo che va avanti da un paio di secoli, per cui uno ritiene di avere il bastone della carriera in mano, e gli americani sappiamo che non risparmiano nulla, consumano anche più di quanto potrebbero, nonostante poi debbano pagare anche loro molto care le scuole e gli ospedali. Ma quella è un'altra dinamica. Nel caso cinese, quando tu ti sei appena inurbato, ti sei appena affacciato alla logica capitalista, tu risparmi perché non sai quanti figli farai, quanto ti costeranno le scuole, cosa succederà quando ti farai male, e così non consumi. Molto interessante anche questa spiegazione. Ripeto, il libro si chiama Il grande ammiraglio Zheng He e l'economia globale. L'autore è l'economista Giorgio Arfaras. Tra l'altro vi segnalo, perché lo facciamo sempre in questi casi, che da metà febbraio, proprio curata da Giorgio Arfaras, uscirà il sito di ricerca economica del Centro Documentazione e Ricerca Luigi Einaudi. Si chiamerà economia@centroenaudi.it. Grazie, dottor Arfaras. Grazie. E adesso passiamo, come sempre, ai mercati finanziari. 349-238-6666 per i vostri sms. Buona la giornata oggi su tutti tutte le borse europee, Parigi più 1,80, Francoforte più 2,5, Londra più 2,3, l'S&P MIB guadagna l'1,16%, il MIBTEL l'1,1%, l'euro è a 1,30 sul dollaro ed è a 90 pence sulla sterlina. I casi di borsa oggi si chiamano Telecom Italia più 7,3%, Fiat più 7,1%, molto bene anche Pirelli più 4,90%, Enel più 4,90%, Fondiaria più 4,2% come Terna. E allora ne parliamo con i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera a voi. Telecom. Sì, iniziamo da Telecom che oggi è rimbalzata in modo deciso a Piazza Affari con uno sprint finale, ha guadagnato il 7,33%, ha ritrovato quota 1 euro, ha chiuso a 1,025. Le ragioni, diciamo che oggi è stata una giornata positiva un po' per tutto il settore delle telecomunicazioni in Europa, che anche diciamo il sottoindice di settore europeo ha guadagnato oltre il 3% dopo la revisione al rialzo delle stime di Vodafone. Questa revisione al rialzo delle stime di Vodafone, in qualche modo inattesa, ha diciamo dato il traino un po' a tutto il settore. Questa è la ragione insomma per cui anche Telecom Italia ha registrato questa ottima performance. In più continuano ancora sempre le discussioni con l'Authority, per cui entro febbraio adesso si parla del lancio di una nuova analisi di mercato sulle infrastrutture di accesso, e anche queste sono tutte notizie che in qualche modo sono state valutate positivamente dal mercato. Andiamo avanti, Fiat, altro caso di borsa, i dati di ieri, voglio dire quelli sulle matricolazioni con un 31% di calo, non erano certo da questo punto di vista rassicuranti, immagino si speri negli aiuti di Stato, negli aiuti al settore, non alla Fiat. Sì, perché come dicevi tu, anche se Fiat ha fatto leggermente meglio del mercato, si tratta comunque di una flessione delle immatricolazioni in Italia del 31% contro il 32% generale, per cui insomma la situazione per il settore auto rimane difficile in Italia. Però ci sono queste attese per un piano anticrisi del governo. Ieri lo stesso primo ministro, il presidente del Consiglio Berlusconi, ha detto che si potrebbe arrivare con questo piano anticrisi fino a 80 miliardi di euro. Questo dà speranze, chiaramente non saranno tutti per il settore auto, è un piano complessivo, però dà in qualche modo qualche speranza che si ritorni a una politica che vada anche a favorire il settore auto. In più oggi l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha fatto due interviste con New York Times e Wall Street Journal, ha spiegato un po' l'operazione con Chrysler, ha ribadito che Fiat non metterà soldi nel gruppo statunitense, ma offrirà semplicemente le sue piattaforme, le sue strutture, e anche questo forse un elemento di chiarificazione che in qualche modo può giovare al titoli del lingotto. Sì, voglio dire, si va a scommettere in assenza di altre notizie sui piani, poi vedremo come saranno articolati. Pirelli più 4,90 come Enel. Enel ha diffuso i dati, mi sembrano più che buoni, i dati preliminari, li ricordavamo in apertura. Pirelli diciamo che continua l'attesa un po' per il piano di Pirelli, perché l'11 febbraio la società dovrebbe diffondere il piano sia per Pirelli che per Pirelli Real Estate. Sono movimenti in gran parte dovuti a questa speculazione. Prossima settimana sapremo se era una speculazione giusta o meno. Che è successo su Prysmian? Perché se passiamo ai peggiori, Monte dei Paschi meno 3,1, Tenaris meno 2,6, Intesa meno 2,6, Banco Popolare meno 2,5, UbiBanca meno 2,5 e la Pop Milano meno 1%. Tra l'altro segnalo che Unicredito invece oggi ha recuperato qualcosa dopo l'ennesimo scivolone, più 1%, ha chiuso a 1,30 euro per azione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, si diceva, Guido Maurino, da un lato di Prysmian che è arrivata a perdere in mattinata il 7%, poi ha chiuso molto molto meglio, sempre in calo per carità, ma con un calo molto contenuto all'1%. E poi come mai oggi le vendite sui bancari si sono concentrate sul Monte dei Paschi, Intesa e Banco Popolare e Ubibanca, lasciando stare Unicredit? Allora, iniziamo da Prysmian. Il forte calo di questa mattina per i titoli, che poi appunto è stato in gran parte recuperato nel corso della giornata, è dovuto alla notizia che l'Unione Europea ha messo sotto indagine le società di cavi per vedere se ci siano dei cartelli. L'Unione Europea ha aperto questa indagine, diversi produttori di cavi elettrici sottomarini sono in questo frangente, diciamo così, sotto l'occhio dell'Unione Europea, per cui questo ha pesato sui titoli. È anche vero, come sottolineavano oggi i trader, che in qualche modo è stata questa mattina una reazione anche emotiva, perché nessuno è ancora in grado in questo momento di valutare quanto potrebbe essere l'impatto su Prysmian di questa azione intrapresa dall'Unione Europea, e questo forse spiega anche perché nel finale i titoli abbiano recuperato. Per quello che riguarda invece il settore bancario, oggi è ancora stata una giornata in cui una giornata pesante, in particolare tutte le banche che sono considerate in questo momento più fragili sono quelle che forse oggi hanno anche perso di più, in particolare Monte dei Paschi, che ha perso il 3,11%, ma anche il Banco Popolare, che ha perso il 2,48%. Dicevamo prima che Intesa San Paolo ha perso il 2,61%, UBI il 2,45%. Anche in questo caso sono le attese per i vari piani di salvataggio che continuano a influenzare i titoli bancari, non solo italiani ma a livello più complessivo europeo e anche negli Stati Uniti. Pesa in particolare le incertezze sulle bad bank, dove dovrebbero essere inseriti i titoli tossici. In particolare il piano di Obama a questo proposito, è vero che ha ricevuto un primo via libera, ma adesso arriva al Senato e al Senato potrebbe incontrare opposizioni più forti, per cui insomma questa incertezza generale che pesa in questo momento sul settore bancario finisce per penalizzare alcuni titoli. Ultimo titolo Tiscali, perché insomma è arrivata l'attesa, sperata cessione della divisione britannica TNET. Il titolo? Ma allora, è arrivata questa cessione, come dicevi tu, il titolo, dopo essere andato molto bene nel corso della giornata, ha chiuso comunque positivo, ma con un rialzo del 2,68%. In realtà la cessione di Tiscali, della controllata Tiscali International Network, è una società fra virgolette minore, una cessione che ha valutato la società 47 milioni di euro. È vero d'altra parte che oggi proprio l'amministratore delegato Mario Rosso ha spiegato di attendersi una cessione ben più cospicua, che è quella delle attività inglesi, entro marzo. Ricordiamo che erano state valutate dagli analisti non più di un mese fa 500 milioni di sterline le attività inglesi, quindi insomma andrebbero a impattare significativamente, mentre questa è una cessione che insomma è abbastanza limitata, ecco. Ci si aspettava qualcosa di più come impatto. Grazie al collega di Radio Corriere sulle 24 ore Guido Maurino. Restiamo in tema di borsa, perché oggi dicevamo non solo i conti, il preconsuntivo di Enel è uscito, ma anche i conti di Terna. Terna bene, è andata in borsa, più 4,17%. Terna, lo ricordo, è quella costola che si scissa dall'Enel e gestisce praticamente tutta la rete elettrica italiana, 38.000 chilometri su 39.000. Per essere proprio precisi, gli azionisti sono la Cassa Depositi e Prestiti, l'Enel, che ha un 5% ancora, e poi alcuni fondi, le generali. E tra l'altro in Brasile la controllata di Terna ha ottenuto appalti trentennali per progettare, realizzare e ammodernare l'intera rete elettrica brasiliana. Come sono andati i conti del 2008? Ricavi in crescita del 3%, 1,4 miliardi, utili saliti dell'1% a 985 milioni, indebitamento che è sceso da 3,3 a 2,6 miliardi. Tra l'altro sono previsti nei prossimi 3 anni investimenti per 3 miliardi e mezzo di euro e i dividendi vengono confermati, si punta a una crescita minima annua del 4%. Tra l'altro lo stesso numero uno Flavio Cattaneo ha detto che nel 2008 il dividendo sarà superiore a quello del 2007. La nostra Anna Marino però l'ha raggiunto anche per parlare, e lo ha intervistato anche per parlare di un altro aspetto che si ricollega alla nostra apertura sulla Cina. Anche da noi il consumo elettrico è un indicatore forse più importante di altri se vi sia o no rallentamento o recessione economica, oppure se siamo solo noi giornalisti, gli economisti, la statistica a raccontarla. Ebbene, Cattaneo ha confermato che a gennaio il calo nei consumi elettrici sarà vicino alle due cifre, e questo di solito è dovuto in stragrande maggioranza alle industrie che rallentano la produzione, non tanto ai privati che magari risparmiano qualcosa spegnendo la luce. Sentiamo Cattaneo al microfono della nostra Anna Marino. Noi nel piano abbiamo detto che il 2009 sarà negativo, non è che lo diciamo solo noi, anche l'autority nelle previsioni. I primi 6 mesi è la parte più brutta. Il governo si è detto assolutamente disponibile ad aiutarci, perché il problema non è il funding, il problema è realizzare le opere. Quindi per far questo il governo si è detto disponibile a spingere sulle realtà locali affinché ci siano queste autorizzazioni. Immaginare il numero di comuni che noi dobbiamo interessare su una linea, no? Sono infiniti, di regioni, di province, e mi pare che il governo il ministro Scajola più volte ha detto pubblicamente che serve un piano di energia nazionale, no? Cioè noi non possiamo realizzare la rete e poi la generazione viene fatta dove si vuole. Serve una visione integrale, un piano energetico nazionale che hanno sicuramente, si è detti, disponibili ad analizzare. Sicilia è una delle priorità e complessivamente sono 700 milioni dei 3 miliardi e mezzo, quindi è il 20%. Noi non abbiamo ancora ottenuto le autorizzazioni, quindi crediamo e speriamo ci sia un forte impegno da parte delle autorità locali affinché ci siano queste autorizzazioni. Poi Sapei è già in realizzazione. Per quanto riguarda i consumi, anche l'autorità per l'energia vi viene incontro? Anche perché se noi non facciamo gli investimenti non cala neanche il prezzo dell'energia, no? Per cui noi siamo il paese che ha il minor costo di trasporto in Europa, però abbiamo anche il prezzo più alto dell'energia in Europa, quindi noi dobbiamo far sì che aumenti il costo del trasporto perché fai più infrastrutture, ma al tempo stesso riduci il prezzo dell'energia complessiva, no? All'interno, questo sarebbe la scommessa. Noi avevamo come azienda alcuni rischi, che era un credit crunch che hanno avuto tutti, quindi le banche non ti danno più i soldi. Poi la seconda cosa è te li danno, ma a quanto te li danno? Quindi la nostra azione è stata proprio quella, in anticipo rispetto alla crisi, reperire funding ad avere degli spread più bassi perché non c'era ancora la crisi, e oggi ci troviamo meglio, per fortuna. Insomma, ha ragione anche l'amministratore delegato di Terna Flavio Cattaneo: se i soldi li hai raccolti prima della crisi, prima del credit crunch, adesso soffri meno. Il problema è che le banche dovrebbero tornare a allargare i cordoni degli impieghi sui privati cittadini, sulle imprese che nulla c'entrano con questa crisi finanziaria, e anche da questo punto di vista non solo allargare i cordoni ma abbassare anche i tassi praticati. Ma cosa volete che vi dica? Ne parliamo e invitiamo il mondo bancario a farlo complessivamente, non ce l'abbiamo con nessuno da settembre, da ottobre. Staremo a vedere. Adesso c'è il GR, poi parliamo dei consumi per quello che riguarda i prodotti di marca e di queste iniziative che Luxottica, ma non solo, anche l'Ilva hanno preso per tener botta e tener duro durante la crisi senza danneggiare i propri dipendenti. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, ci occuperemo adesso di come grandi gruppi italiani ma non solo, affrontano questa crisi e oggi sul Sole 24 Ore trovate una bellissima inchiesta sul tema. Prima di tutto però ragioniamo dei consumi in tempi di crisi, perché ci ha sorpreso una notizia che è arrivata oggi da Centromarca, ossia l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca. Vi aderiscono 192 imprese, adesso ne parleremo. Prima rapidamente un aggiornamento delle notizie in breve. A chi si fosse appena messo in collegamento, ricordiamo la giornata di borsa. Il boom di Telecom Italia più 7,3%, trainata dai dati Vodafone, Fiat più 7,1% sulle ipotesi di aiuti al settore auto, Pirelli più 4,90% in attesa dell'11 febbraio, quando si conoscerà il piano Pirelli, Enel più 4,88%, buoni dati oggi del preconsuntivo, Eterna più 4,2%, ne abbiamo appena parlato di Eterna e dei suoi dati, bene anche Fondiere Assai più 4,2%. Sul fronte opposto di nuovo vendite sui bancari, direi quasi tutti tranne Unicredito, Monte dei Paschi perde il 3,1%, Intesa il 2,6%, il Banco Popolare il 2,5%, come UbiBanca, la Popolare di Milano meno 1%. Vedo ancora dei vostri messaggi sulla Cina, non possiamo tornare sul tema del rallentamento economico cinese. Adesso invece parliamo di consumi, perché se il dato di novembre delle vendite al dettaglio è stato un dato pesante nel suo calo, meno 3% sull'anno, con cali forti nei farmaci, nei cosmetici, nei cellulari, meno 5% in media questi settori, e anche giornali, libri, riviste, elettrodomestici, meno 4%, oggi arriva un dato sul tessile in cui l'export nel 2008 è purtroppo calato dell'8%. E tra l'altro il calo complessivo è stato, lo riporta ai valori del 2005, cioè stiamo parlando di circa un fatturato di 8,8 miliardi di euro come fatturato complessivo, in calo del 4,6%, con un calo più accentuato nelle esportazioni, scese a quota 6 miliardi, meno 8%. Dicevo, se anche il tessile conferma questa difficoltà nelle nostre esportazioni, oggi Centromarca, l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca, ha diffuso dati oggettivamente sorprendenti, soprattutto per il mese di dicembre. Ne parliamo con il presidente di Centromarca, Luigi Bordoni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dunque, a Centromarca, lo ricordo, aderiscono 192 imprese che spaziano dai beni di consumo immediato a quelli più durevoli, per cui dall'alimentare al chimico per la casa, al tessile, a bricolage, ai giocattoli. Come sono andate le vostre vendite a dicembre? Il dato di dicembre è un dato decisamente positivo, abbiamo registrato un 6,8, quindi direi un dato quasi sorprendente, e ci aspettiamo anche per il consuntivo di gennaio una conferma di questo andamento. Detto questo, un più 6,8% che porta la media nel 2008 a che livello? Intorno, allora direi che il dato di dicembre consente di ridimensionare la flessione del 2008, che si pone adesso intorno, diciamo, 1,6, insomma poco più dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Come giustifica il fatto che a dicembre, che è un mese particolare, ci sono le spese natalizie, i consumi natalizi, e in generale la vostra flessione sia tutto sommato contenuta? Le spiegazioni vengono da alcuni dati che sono resi disponibili proprio in questi giorni. Abbiamo innanzitutto la rilevazione periodica di GFK Eurisco sugli orientamenti del consumatore, che rileva un aumento dell'apprezzamento per la qualità, per la sicurezza, quindi per gli elementi che caratterizzano il prodotto di marca. Poi abbiamo il dato ISAE di gennaio, che conferma una ripresa di fiducia, tra l'altro l'indice di fiducia si riporta ai livelli pre-crisi, quindi tutto questo credo che stia a indicare una volontà di rimonta. Gli italiani stanno mostrando una capacità reattiva notevole e una determinazione a fare il possibile per mantenere i livelli di vita che erano stati conquistati. Poi, come diceva lei, dicembre è comunque un mese che può portare con sé degli elementi anche di ottimismo, ma certo che la conferma attesa in gennaio è un fatto abbastanza importante. Presidente, mi scusi, ma come si giustifica il fatto che in un periodo in cui gli italiani fanno le formiche, vediamo le autostrade con meno tir, l'autogrill con meno consumi, insomma tutto un insieme di indicatori anche proprio reali, sociologici, non statistici. Ebbene, tutti questi indicatori ci dicono che i consumi stanno calando, che gli italiani risparmiano o se riescono comunque stanno attenti, perché non si capisce quanto durerà questa crisi, questa recessione. Ecco, come si spiega il fatto che invece crescono i consumi dei vostri prodotti, che essendo di marca spesso sono anche, si collocano anche nella fascia alta del prezzo? Capisco la perplessità che può creare a prima vista questo, ma le scelte di consumo non sono mai rivolte al solo prezzo o al solo prodotto. Le decisioni d'acquisto si basano sul rapporto tra prestazione e prezzo, tra qualità e prezzo, tra quello che si compra e quello che costa. E sono in stato di assoluta necessità, noi o una persona può essere indotta a comprare quello che può comprare, ma normalmente c'è sempre questo rapporto. E in questa situazione, evidentemente, e le imprese di marca sono impegnate a dare la migliore prestazione al prezzo più contenuto. Potrebbe essere che in realtà chi compra i prodotti di marca risente meno della crisi in questo momento e chi invece risente di più della crisi, penso non solo ai cassi integrati ma anche a chi vede crollare il giro d'affari o non vede rinnovato il proprio lavoro a tempo interinale. Non era mai stato un vostro cliente nemmeno nel passato, quindi la variazione si vede poco? Il discorso che fa lei può valere per i prodotti, diciamo, dell'alto di gamma, che sono quelle che possono destinate a un pubblico che forse risente di meno, ma guardi che comunque la riflessività, insomma, nell'acquisto poi riguarda un po' tutti i posizionamenti, un po' tutti i pubblici. Però devo dire che quello che è in atto è sicuramente una grandissima attenzione. Tenga presente che i nostri prodotti non si collocano soltanto in alto, sono molti nella parte, diciamo, quel che chiamiamo normalmente la pancia del mercato. Grazie al presidente di Centromarca, quindi Luigi Bordoni. Grazie a voi, molte grazie. Intanto un aggiornamento, di nuovo in diretta chiaramente per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni, un aggiornamento: le vendite Ford sul mercato americano a gennaio hanno preso un'altra sberla, meno 42%, 90.000 unità contro le 156.000 dello stesso periodo, cioè dell'anno prima, gennaio 2008. Allora, dicevamo, in questo periodo in cui stiamo cercando di vedere anche gli elementi positivi, ma soprattutto chi reagisce a una crisi, a una recessione in corso, soprattutto non causata da chi reagisce come le grandi imprese, oggi su Sole 24 Ore un paio di notizie che potrebbero in alcuni casi anche segnare una nuova strada per tener botta alla crisi. I casi si chiamano Luxottica e Ilva di Cornigliano, oggi in prima pagina sono solo 24 ore, alcuni di voi avranno sentito forse anche l'asterisco questa mattina alle 8.35 del direttore Ferruccio De Bortoli, il quale plaudiva all'iniziativa della Luxottica, pur ricordando che non è estendibile a tutti, che Luxottica se lo può anche permettere, ma che insomma c'è più di un elemento positivo. Allora ce la racconta Roberto Iotti, che è il capo delle pagine di economia, il caporedattore dell'economia del Sole 24 Ore. Buonasera Roberto. Buonasera a te Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, che cosa ha deciso di fare in maniera molto semplice la Luxottica per tutelare il potere d'acquisto dei propri 7.800 dipendenti? Ma guarda, la cosa è molto semplice. Luxottica ha concordato con le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali una sorta di terzo livello contrattuale, oltre a quello del nazionale, il contratto nazionale, al contratto di secondo livello, che è quello aziendale. Nel corso del 2009 verrà introdotto questa sorta di terzo livello, non è regolarmente contrattualizzato, loro lo chiamano terza gamba del contratto, in cui sono indicate una serie di servizi che l'azienda andrà a coprire per migliorare la qualità della vita di ogni dipendente e soprattutto, dice l'azienda, per colmare quel gap differenziale che c'è tra la retribuzione lorda che l'azienda riconosce e la retribuzione netta. Netta sta per dire al netto delle contributi fiscali e previdenziali che il dipendente riceve ogni mese in busta paga. Famoso cuneo fiscale. Sì, ricordo che ogni dipendente Luxottica riceve mediamente 1200 euro netti al mese. E quindi, insomma, partiamo su una fascia decisamente bassa, pur sapendo che questo è il salario nel mondo del lavoro, ma non stiamo parlando di dirigenti o manager. No, poi... anzi, scusa, il fatto è questo proprio, l'accordo riguarda essenzialmente gli operai e gli impiegati, non riguarda i dirigenti e i quadri dirigenti del gruppo. Che cosa potranno fare? Cioè, questo terzo livello, che a me ricorda anche un modello, se mi passi il termine Roberto, quasi giapponese, in cui l'azienda, l'impresa si preoccupava anche dei tuoi figli, delle spese per l'istruzione, ma così, per usare qualche esempio, che cosa avranno a disposizione i dipendenti della Luxottica? Ma guarda, prima di risponderti vorrei dirti che, riprendendo quello che tu dicevi, questo è un accordo che è innovativo per due aspetti. Il primo proprio per alcuni degli 8 punti che sono stati introdotti, di cui dopo appunto vediamo lo specifico. Il secondo è che per la prima volta un'azienda si prende, tra virgolette, una sorta di responsabilità sociale verso il territorio in cui opera e verso i dipendenti che vivono in questo territorio. Questo lo vediamo molto bene dai punti, come dicevo prima, che fanno parte di questo accordo. Acquisto di beni di uso primario, in questo caso per esempio Luxottica farà delle convenzioni con delle catene retail presso i quali i dipendenti possono recarsi mostrando una tessera di Luxottica, possono fare acquisti con sconti mirati oppure anche per prodotti agevolati. C'è un capitolo importante relativo a tutto quello che riguarda la sanità, la medicina preventiva con convenzioni in centri di diagnostica, le cure odontoiatriche, pediatriche e specialistiche. C'è un intervento per aiutare le famiglie nel trasporto, praticamente il pagamento, non so, degli abbonamenti dei treni o parte di pagamento degli abbonamenti di treni e mezzi pubblici. E anche le famiglie che hanno bambini portatori di handicap, o comunque ecco, anziani da assistere o alle prese con problemi di tossicodipendenze. È un modello, ha ragione il direttore De Botri nel dire che poi Luxottica se lo può anche, è difficilmente estendibile. Ci sarebbe anche da chiedersi dov'è lo stato sociale in questi casi, però sicuramente è un modo per incrementare, diciamo, il potere d'acquisto o liberare potere d'acquisto, assolutamente innovativo nel nostro panorama. Sì, ti aggiungerei una cosa proprio sotto questo profilo: la Luxottica da una parte e le tre organizzazioni sindacali che hanno concordato con l'azienda questo tipo di accordo, CGIL, CISL e UIL, sia locali che di categoria, sottolineano il fatto che questo non è un accordo in cui l'azienda si sostituisce allo Stato o si sostituisce ai servizi sociali forniti dal pubblico. È giustamente una integrazione che l'azienda fa per aiutare la spesa delle famiglie. Non hai fatto bene a fare questa precisazione. Non c'è solo la Luxottica, che appunto si può permettere anche, tra l'altro è stato calcolato che per 100 euro di spesa si avranno benefici per 130, per cui... Sì, il pacchetto totale Luxottica conta di investire dai 2,3 ai 2,6 milioni di euro. E non è poco. Ma ci sono anche aziende che hanno un altro tipo di difficoltà, penso alla Ilva di Cornigliano. Per evitare la cassa integrazione di 130 operai, ha accettato di modificare gli operai, è un accordo sindacale, chiaramente hanno accettato di modificare la settimana lavorativa e il sabato e la domenica verranno utilizzati come giorni feriali e altri saranno i giorni festivi. Devo dire che anche qui i colleghi di Radio 24 sono abbastanza abituati a lavorare il sabato e la domenica. Perché? Perché il sabato e la domenica l'elettricità costa di meno, la siderurgia è energivora per definizione, e quindi in questo modo si risparmia un 50% a lavorare negli altri forni il sabato e la domenica. Per sapere di più, la nostra Roberta Pellegatta ha intervistato Pietro De Biase, che è il responsabile delle risorse umane e relazioni industriali del gruppo Riva. In una situazione di crisi come questa, dove tutta la siderurgia sta fronteggiando una drammatica caduta di volumi e di prezzi, una delle misure di ottimizzazione della resa produttiva e anche della redditività della produzione è quella di concentrare la produzione nelle fasce di minor consumo di energia, perché la siderurgia è un'industria energivora, e quindi si è scelto di lavorare il sabato e la domenica invece di fermare per la fermata settimanale in giorni feriali, tra virgolette. 130 operai hanno accettato di modificare la settimana, su quanti? Questo riguarda un impianto dello stabilimento, perché quindi sono 130 operai. Lo stabilimento di Genova in questo momento sta lavorando con circa un migliaio di operai. E dipende dagli impianti, ci sono alcuni impianti che lavorano a ciclo continuo, quindi questo discorso non si può fare, invece ci sono altri impianti che hanno, per caratteristiche tecniche, la possibilità di fermarsi, e in questo caso su questo tipo di impianto, che si chiama impianto di banda stagnata, è stato possibile fare questa operazione. E quanto si risparmierà? Difficile dirlo, diciamo che l'energia elettrica ha un costo significativamente più basso nel weekend rispetto ai giorni feriali. Poi è chiaro che la struttura dei costi è più complessa, però questo è un elemento su cui agire ed è un elemento su quale agiamo anche in altre realtà produttive nostre, sia in Italia che in Europa. Ecco, in quali? In quante? Beh, in Italia ci sono almeno altri 3 stabilimenti e in moltissime altre realtà europee, parliamo di più di una decina di stabilimenti. Non ricorrerete quindi alla cassa integrazione? Questo è uno strumento per contenere l'uso della cassa integrazione, però purtroppo non sempre è possibile eliminarlo, diciamo che in questo modo si riesce a contenerne e a ridurne l'uso. Esiste in prospettiva la possibilità di ridurre l'orario di lavoro, come peraltro auspicato dal CNEL, per limitare gli esuberi? Guardi, la discussione sulla settimana corta è una discussione che non si basa su dati reali, perché non esiste nessuna ipotesi né in Germania né in Italia sulla base del testo normativo di settimana corta. Esiste la cassa integrazione, e la cassa integrazione prevede una riduzione di orario, quindi lo strumento è molto flessibile, ma si chiama cassa integrazione, non si chiama riduzione di orario e non si chiama settimana corta. Così il responsabile delle relazioni industriali del gruppo Riva. Oggi purtroppo c'è una notizia invece più negativa: ha chiuso la fabbrica torinese della Indesit, 600 persone a casa nello stabilimento di None in provincia di Torino. Ma per concludere, Roberto Iotti, molti ascoltatori segnalano che alcune formule adottate da Luxottica già esistono all'ENI, alla Kral, in altri luoghi, è vero, è verissimo. Sì. Sta tornando complice o causa della crisi un rapporto che ricorda anni, decenni passati più che gli ultimi anni 90? Direi di sì, diciamo che in questo caso il modello Olivetti e il modello Fiat degli anni 60, a cavallo degli anni 50 e 60, sta ritornando. Gli stessi dipendenti chiedono servizi piuttosto che emolumenti monetari su cui puoi pagare tasse e trattenute. In questo l'esempio Luxottica, ma non solo, dicevamo Ferrero ad Alba, ha una presenza di welfare molto forte. Ricordo Cucinelli, per quanto riguarda un produttore di cashmere, che comunque ha realizzato delle strutture e dei servizi di welfare per i propri dipendenti. Gli asili aziendali ormai sono quasi un'abitudine. C'è un ritorno. Sì. Allora, è importante questo anche perché è chiaro il ragionamento economico: se tu dai 100 euro in più a un dipendente, paghi le tasse sopra 30, 40 20 euro di tasse, se questi soldi li storni attraverso servizi che comunque il dipendente dovrebbe ottenere, non ci sono tasse da pagare, c'è un beneficio a parità di servizio per il dipendente e anche per l'azienda che questi servizi li fornisce. Grazie al caporedattore delle pagine di economia del Sole 24 Ore, Roberto Iotti. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.